La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci insieme, La Rosa Purpurea, il nostro appuntamento settimanale con il cinema. Un saluto da Franco D'Assisi, weekend ricco, come ormai sempre capita durante questo periodo ormai di inizio autunno della stagione. Caccia all'incasso, al botteghino, che per il momento è anche in maniera abbastanza abbondante, dominato da Lucy di Luc Besson, di cui abbiamo diffusamente parlato e che abbiamo promosso la settimana scorsa, che ha incassato 2 milioni e mezzo nel primo weekend di programmazione, alzando nettamente in testa, al secondo posto Le Tartarughe Ninja a 700.000 euro, al terzo La Buca di Daniele Cipri, che è stato nostro ospite proprio la scorsa settimana, a 374.000 euro. Certo, non incassi che facciano saltare di gioia i distributori, però certo quello di Lucy è un exploit molto molto importante. Vedremo se questa settimana ci sarà qualche film che riuscirà a scalzare la bella Scarlett Johansson dalla vetta della classifica italiana. Noi cominciamo però con un film nostrano, con un film italiano, reduce dalla Mostra del Cinema di Venezia, un altro noir, che è stata un po' la cifra veneziana tra Anime Nere, per esempio, altri film che comunque hanno questa matrice nero criminale, diciamo così, che un po' contrassegna questo passaggio del cinema italiano. Il film si intitola Perez punto, cioè il punto fa parte proprio del titolo, quindi tenetelo presente. Il protagonista, che tra poco sentiremo tra l'altro, è Luca Zingaretti, la regia di Edoardo De Angelis. Sentiamo la clip. Io lo vedevo il muro davanti a me, non è che non lo vedessi, eppure continuavo ad andargli incontro. Avvocato, io mi ho scelto mica perché siete il più bravo avvocato. Mi ho scelto semplicemente perché voi state inguaiati. Ti sei dato con la testa nel muro, papà. Di chi si è innamorata la vostra ragazza? Hai scopazzato per te, Angelo. Sta con una fognatura d'uomo. Io sono innocente. Tu sei la detenta a casa mia. Non lo so dove andare. Ti chiedo qualche giorno. Tu non l'hai proprio capita la merdosità di questa situazione, eh? Perez, o fai o ti fanno. Caro Perez, o fai o ti fanno. E allora, di Perez vogliamo parlare con Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Buongiorno a tutti. Perez, lavoro avvocato d'ufficio, uno che non sceglie ma viene scelto perché in quel momento, in quel turno c'è lui a difendere il malcapitato di turno, quello che nessuno vuole difendere. Ma qualcosa nella vita di quest'uomo, che già una volta è stato fregato dalla paura, qualcosa cambia nel momento in cui a essere coinvolto in una delle sue scelte è la figlia, che ha una relazione con un pericoloso camorrista. Boris, dicevamo, è la stagione del noir italiano a tutti gli effetti. Come se la cava questo Perez? Ma questo Perez ha una vita, secondo me, discontinua, perché De Angelis è sicuramente un regista interessante che sa giocare su diversi registri ed è molto bravo soprattutto quando deve dare un tocco di malinconica ironia a delle storie noir. Penso anche a Mozzarella Stories, dove magari l'aspetto, diciamo, più grottesco, più immaginifico era più evidente. Ha un serio problema grosso con la scrittura ed è un peccato, perché la regia, la fotografia hanno un'ambizione maggiore, molto più interessante di un prodotto medio di genere italiano, e la sceneggiatura invece è molto televisiva, è molto incapace di fare un salto ulteriore, non sa trovare uno spessore che quel tipo di noir, che vorrebbe essere anche sociale, vorrebbe essere anche ricercato nelle sue svolte, riesca a trovare. E quindi si spreca un po' anche l'ottima intesa che c'è tra Zingaretti e D'Amore, che più che futuro genero e suocero sembrano quasi padre e figlio anche fisicamente, e questo, insomma, ti impedisce di sposare completamente il film, soprattutto per un paio di svolte di sceneggiature, una fondamentale, che sono davvero improbabili, sono, non dico poco spiegate, ma poco plausibili. Beh, comunque andiamo a sentirlo allora, il lavoro che è stato fatto da Luca Zingaretti, anche da Marco D'Amore, coprotagonista, uno dei volti della serie televisiva Gomorra, per lavorare proprio a questo personaggio, questo Perez, che ha una parabola dentro il film, da uomo senza qualità fino a grande vendicatore. Luca Zingaretti. Diciamo che è una grande sfida per un attore, ma anche un grande godimento, perché quando i ruoli sono scritti come questo qua, ovviamente uno è solo felice di interpretarli. Poi più, più corde si toccano, più chiaroscuri si mettono sotto la lente di ingrandimento, e più per un attore è un grande piacere. Un avvocato d'ufficio vive in un limbo, in una sorta di non luogo, dove forse a volte spera addirittura di schivare, se vogliamo, le cause, no? Che invece gli piovono addosso, e quindi non sceglie neanche molto spesso. Beh, questa è un po' la sindrome di Perez. Perez è un uomo che ha smesso di decidere la propria esistenza da qualche tempo, si lascia trasportare dalla corrente degli eventi, del tempo, e si lascia vivere, si guarda vivere, perché poi ha anche una grande consapevolezza su quella che è la sua realtà. Poi a un certo punto, e direi quasi dal punto di vista di Perez per fortuna, avviene un qualcosa che lo obbliga a tornare con i piedi sulla terra e a riporsi degli interrogativi, che sono quelli che ci si pone, insomma, quasi ogni giorno: chi sono, da dove vengo e che cosa voglio fare di questa mia esistenza. Quegli interrogativi hanno il viso e il volto di una sorta di futuro genero, chiamiamolo così, un po' impegnativo. Abbastanza impegnativo, direi, che arriva a complicare maggiormente le sorti di quest'uomo che, come ha detto prima Luca, si lascia un po' andare come un materiale alla deriva. E quindi dal punto di vista narrativo, Francesco Corvino, che è appunto il nome del mio personaggio, rappresenta anche un motore, una nuova accensione per Perez, per rimettersi in moto. Spesso però il passato che ci grava sulle spalle non ci lascia tanta possibilità di scelta. Nell'immaginario recente la camorra è stata raccontata soprattutto da Gomorra, prima al cinema, adesso in televisione, e ha occupato forse uno spazio visivo nella mente delle persone che prima era un po' più vuoto, forse arrivava da qualche immagine del telegiornale, sì e no. Come ci si rapporta a questa nuova realtà dovendo recitare un ruolo di un camorrista o comunque in un film che ha questo tipo di sfondo? Secondo me il racconto criminale è abbozzato in questo film, fa davvero da cornice, ma l'attenzione è da puntare sul quadro, che è un quadro di sentimenti. È un racconto di un padre, di una figlia, di un uomo solo, di un ragazzo che si innamora, della possibilità di creare una famiglia impossibile. Quello è il cuore del film. Sullo sfondo c'è questa matrice criminale che pulsa e che, ahimè, fa parte del nostro tessuto sociale. Luca Zingaretti e Marco D'Amore alla Rosa Purpurea per parlare di Perez nei cinema italiani da questo fine settimana. È il momento di giocare insieme, siamo di fronte al mito, sentiamo la clip. Immagina che la vita come tu la conosci si fermi istantaneamente ed ogni molecola del tuo corpo esploda alla velocità della luce. E quello è male. Ok, è un importante ragguaglio. E allora, siamo di fronte, dicevo, al mito, perché siamo di fronte al culto sicuramente di un film immortale che adesso per diverse ragioni torna un po' alla ribalta. Diteci di che film si tratta se l'avete già indovinato, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo di posta per eventualmente riceverlo in caso siate fra i due più veloci che lo avranno indovinato. Più tardi ci sarà un'altra possibilità. Adesso sentiamo come vanno le cose sulle strade. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, la Rosa Purpurea, seconda parte del nostro programma, ancora tanto cinema di cui parlare fra le novità in sala in questo fine settimana. Partiamo con l'animazione di Box Trolls, Le Scatole Magiche, una sorta di favola comica ambientata in un mondo dell'epoca vittoriana, un paesino che si chiama Cheese Bridge, cioè il ponte del formaggio per intendersi, dove succedono strane cose da parte di strani personaggi. Sentiamo la clip. I Box Troll sono mostri. Scappate! Ora acchiapperò fino all'ultimo Box Troll, il che mi renderà l'uomo più rispettato della città. Andiamo, uovo. Arrivano i disinfestatori della giustizia. Possiamo ribellarci. Mai visto uno reagire così? E allora, i Box Trolls, questi personaggi che vivono ai sotterranei di questa città vittoriana, hanno avuto l'onore della proiezione alla Mostra del Cinema di Venezia. Segno, Boris, che qualità ce n'è in questa animazione. Ma la qualità è buona, siamo su una narrazione buffa, divertita, che non ha grossissime pretese, però questa società di Pontecascio viene resa, insomma, in tutta la sua forza anche infantile. C'è un'originalità sia nel racconto sia nel modo in cui viene presentata questo regno di fantasia, questo posto in cui le scatole magiche, insomma, regnano. E devo dire che, pur non trovandoci di fronte a un capolavoro del genere, ed è sempre più difficile visto la forza produttiva e creativa dei colossi, ci si fa accompagnare volentieri da questo lavoro in un racconto che, pur non avendo, appunto, pur non promettendo moltissimo, mantiene forse più di quello che credi alla fine. Quindi direi comunque di promuoverlo. Mi sembra che comunque sia un qualcosa adatto alle famiglie con figli piccoli, nel senso che non c'è lo spessore che magari puoi trovare, appunto, in qualcosa della Pixar o della DreamWorks. E allora, questo per quel che concerne Box Trolls. Rimaniamo, anche se ci spostiamo di target sicuramente, comunque a un film in qualche modo animato, perché chiaramente Frank Miller, Robert Rodriguez, Sin City sono temi che, insomma, ecco, animazione forse è una parola in questo senso che gli sta un po' stretta. Siamo dalle parti del grande fumetto d'autore, del graphic novel, che diventa cinema, certo, sì, animazione, ma con una tecnica davvero sopraffina. Sin City, una donna per cui uccidere. È il Sin City 3D che arriva 9 anni dopo il primo capitolo, rimandato più volte, e adesso finalmente sul grande schermo, con le gesta degli attori che diventano altro sotto il segno grafico, da Mickey Rourke a Jessica Alba a Josh Brolin a Joseph Gordon-Levitt. Allora sentiamo la clip e ne parliamo. Come ci sono arrivato qui? Che cosa ho fatto? Sei l'unico che abbia mai amato. Senatore? Hai capito chi ti sei messo contro? Ti sei messo contro Rourke. Sono pronto al tuo lato peggiore. Neanche puoi sognarlo, il mio lato peggiore. Sin City è un posto in cui entri tenendo gli occhi aperti. O non ne esce più. Boris, devo dire due cose su Sin City. Una, che è quasi una contraddizione quella di fare in 3D una roba che è quanto più 2D che esista, cioè proprio fumetto quasi allo stato puro. Eppure secondo me la cosa funziona abbastanza. Io non sono un enorme fautore, anzi sono quasi un detrattore del 3D, però devo dire che in questo caso non mi ha sicuramente infastidito, e forse qualche cosa aggiunge. E la seconda cosa, rispetto a questo film, che io mi sono enormemente divertito, forse mi sono addirittura divertito di più rispetto al primo Sin City, che pure mi era piaciuto. Tu come la vedi? Sono completamente d'accordo. Tra l'altro, giocando con un'altra delle uscite della settimana, direi che Box Trolls, uno si aspettava che il 3D fosse migliore e invece forse vale la pena vederselo in 2D. Qui uno si aspettava che non potesse che uscire in 2D e invece ci ritroviamo un prodotto in 3D che incredibilmente si fa fatica anche a spiegarlo dopo averlo visto. In 3D ha una sua resa molto potente. Sarà anche forse per i tratti di Frank Miller che sulla pagina sembrano sempre in 3D, hanno quella profondità dovuti da bianchi e neri violentissimi che forse al cinema hanno in effetti bisogno del 3D. Ma al di là di questa valutazione tecnica, che a mio parere è anche un gran merito del regista, cioè riuscire a rendere molto più spesso questo mondo, c'è da dire che Sin City 2 sembra un prodotto più maturo. Se quella era una splendida intuizione, cioè la voglia di portare quel mondo noir, quel mondo molto antico e allo stesso tempo però innovativo nei tratti al cinema, qui c'è una consapevolezza del racconto visivo e narrativo molto più forte, e a mio parere c'è una capacità di andarsi a pescare degli attori ancora più adatti a quel mondo. Penso per esempio ad Eva Green, che non è mai stata una grandissima attrice, a volte ha incontrato dei grandissimi registi e qui trova secondo me il suo personaggio, cioè abbiamo capito forse qual è il mondo che deve frequentare per diventare grande in tutti i sensi. Parlo anche di Brolin, cioè parlo di tutta una serie di comprimari che in questo film diventano tutti protagonisti per pochi minuti o anche per tutto il film. E allora usciamo dall'animazione, ritorniamo alla live action, alla carne e ossa, come si suol dire, per un'altra delle segnalazioni rispetto alle novità di questo fine settimana in sala. E ho voluto scegliere un Melò, un film d'amore impossibile, se vogliamo, d'amore solo sfiorato, anche quello un sottogenere, no? Se vogliamo, quello degli amori impossibili, che però sono quelli che fanno palpitare spesso di più i cuori, proprio perché c'è empatia rispetto a due personaggi che non riescono a a far sfociare i loro sentimenti in quello che sarebbe forse meritato, ma che spesso le convenzioni sociali rendono appunto impossibile. Stiamo parlando di Una promessa, il film ha una firma veramente d'autore, quella di Patrice Lecomte. Gli attori sono Rebecca Hall, Richard Madden e un grandissimo Alan Rickman. La storia si svolge in Germania nel 1912. Questo film è meglio vederlo doppiato, perché in originale è recitato in inglese e francamente non si può sentire in certi momenti recitare in inglese una cosa che si svolge in Germania. Però detto questo, è la storia di un giovane tecnico, di un giovane burocrate di umili origini che va a lavorare a servizio di del padrone di grandissime acciaierie. Siamo agli inizi del secolo e si innamora fatalmente della sua bellissima moglie. Un amore che appunto non sfocia mai in quello che dovrebbe sfociare. Poi arriva pure la guerra a dividere i destini, li ritroveremo e chissà come andrà a finire qualche anno dopo. Sentiamo la clip. Friedrich Zeitz, Herr Hofmeister mi sta aspettando. Voi siete l'assistente di Herr Hofmeister, ma io sono sua moglie, perciò credo sia bene essere onesti tra di noi. Sono d'accordo. Vuole dare a Otto delle lezioni private. Ben presto vi ritroverete ad occuparvi di tutta la mia famiglia. Il governo messicano vuole attirare investitori europei. Le porte sono spalancate. Siete l'uomo giusto per questo lavoro. Come? Devo andare in Messico per 2 anni. Non posso vivere senza di voi. Boris, ho voluto scegliere Una promessa perché prima abbiamo parlato di film nei quali forse la regia non faceva quello che doveva fare. Ecco, questo è un film che ha un plot del classico Melò, attori straordinari, molto ben recitato, grandi costumi, c'ha tutta la messa in scena, dove però secondo me il tocco in più è proprio la sapienza della regia di Patrice Lecomte. Sì, nel mio caso forse direi anche l'unico, nel senso che in qualche modo Patrice Lecomte gioca talmente tanto sul suo talento che poi si dimentica il film, perché sa come maneggiare i melò in ogni mondo, tempo e modo, e allo stesso tempo invade gli attori, li lascia come per dire sullo sfondo. Lo stesso Alan Rickman, che secondo me è straordinario e fa vedere qua 2 o 3 momenti bellissimi, soprattutto per il personaggio, insomma, che invece ad altri costringerebbe in un angolo, lui riesce a costruire appunto un film che probabilmente nelle mani di un altro non avrebbe neanche ragion d'essere, e allo stesso tempo però lo scippa un po' gli spettatori, un po' gli attori, che sono costretti più a vedere un esercizio di stile anche ben fatto, con una brava attrice che viene coccolata da questo film, che un'opera che forse poteva con Lecomte trovare ancora maggior respiro. E allora, noi a questo punto, finite le nostre segnalazioni per questa settimana, lasciamo andare Boris, perché ha un impegno molto importante. Boris, cioè, sta per andarsi a sposare in questo momento. Evviva Boris Sollazzo, evviva Marie che diventa sua sposa. Auguri da tutto il popolo della Rosa Purpurea, Boris. Il grosso grasso matrimonio sloveno. Divertiti e mi raccomando, siate felici, hai tutto l'abbraccio della redazione e sicuramente di tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ci sentiamo da sposo la settimana prossima, perché non ti lascio neanche andare in viaggio di nozze. Ovviamente, alla prossima settimana e buon cinema allora. Ciao Boris, ciao. E allora andiamo avanti, lasciamo Boris correre a sposarsi, ha scelto l'orario in base alla programmazione della Rosa Purpurea, e andiamo a giocare con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Questa città va verso un disastro di proporzioni bibliche. Proprio una roba da collera divina. Esatto. E allora, collera divina che colpirà quale film? La Rosa Purpurea, @radio24.it, titolo del film, nome, cognome, indirizzo. 2 persone riceveranno l'edizione in Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana con tanto di recensione. 7 giorni fa avevamo giocato così. Ho paura. La mia testa è come se mi scoppiasse. Dai, devi farcela. Dimmi dove ti incontriamo e vattene! Anzi, forse è meglio dire avevamo rigiocato così, perché 2 settimane fa nessuno aveva indovinato questo film. Invece la settimana scorsa siete stati più attenti, forse vi ho aiutato anche un po'. Giovanni Capelli di Bergamo e Maria Giovanna Romano di Sant'Agnello, provincia di Napoli, riceveranno il Blu-ray de La città verrà distrutta all'alba, il grande capolavoro di Romero, che riesce in edizione Blu-ray, appunto, della quale parliamo con gli amici di Film TV e con Giulio San Giorgio in particolare. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Siamo in Pennsylvania, dove precipita un aereo e a seguito dello scampo si diffonde nell'aria un'arma batteriologica che provoca lesioni cerebrali e follia. l'esercito isolasta, il governo pensa di ricorrere alla bomba atomica, il popolo esplode comunque. Una teoria politica firmata da George Romero, che arriva in Blu-ray, un Blu-ray che riprende il master dell'edizione americana, con le stesse imperfezioni del video dovute all'età del film, quindi graffi e spuntinature, e con un audio decisamente meno soddisfacente, frusciante ed opaco. Gli extra sono pochi, ma il Blu-ray è comunque da avere, vista l'importanza del film. Giulio, parliamo anche di cinema in televisione. La settimana prossima un film che vale sempre la pena vedere, si intitola Revolutionary Road, un grande film, anche in questo caso di un amore difficile, su Iris, mercoledì 8 ottobre a 12:50. Sì, Revolutionary Road su Iris alle 23:50 di mercoledì. Tormenti ed ipocrisie di una giovane coppia borghese nel Connecticut degli anni 50, una coppia felice e sorridente in superficie e guasta e frustrata dentro. Tratto dal capolavoro letterario di Richard Yates, un melo formalista e glaciale che dietro la patina delle immagini di Sam Mendes, la geometria delle sue inquadrature e il rigore bigotto della provincia americana nasconde sentimenti inquieti, bisogni laceranti che lottano contro i limiti borghesi e desideri che si agitano e dilaniano al profondo di questi individui. Maestranze eccelse, due attori strepitosi che sono Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, che si ritrovano a 11 anni da Titanic. Grazie Giulio, appuntamento la prossima settimana. Ciao Franco, e alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, grazie a Paolo Corleoni che ci ha aiutato in regia, Giorgio De Luca in redazione. L'appuntamento va la prossima settimana, come sempre qui, il sabato pomeriggio, per parlare di cinema alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi.